¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Mañana yo ya estaré. bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame. I'm not afraid to die. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Rapper. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mamma mia, ci salverà. si l'olio coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e la salta tornerà. Salsa, salsa, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e la salta tornerà. Già s'avanza, si ritira e la salta tornerà. Serra, serra, con la tonda, con la tona va che là. Con la rosa va seconda, con la svolta fermo sta. Viva il ballo tondo, tondo, sono re, sono qua. Piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, mamma mia, c'ha la luna da salvare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia si salverà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia si salverà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia si salverà. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.